Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I medici che hanno fatto mettere a terra i pazienti per curarli, secondo me non vanno sanzionati, vanno premiati, perché quei medici stavano dando un servizio malgrado, una carenza oggettiva che c'era nelle risorse che gli venivano date. Avrebbero fatto bene a mandare quei pazienti a casa. No, hanno fatto benissimo a fare quello che hanno fatto. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo la ministra Lorenzin anche il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone, che avete appena sentito, presidente appunto dell'autorità anticorruzione, scagiona e anzi loda i medici che dell'ospedale di Nola in Campania, di cui si è parlato moltissimo in questi giorni, no, con i pazienti ritratti da varie immagini che venivano curati per terra. Prima c'era stata una sospensione di alcuni medici, addirittura poi si era parlato di un possibile licenziamento. Poi è intervenuta la ministra Lorenzin e oggi, diciamo, il loro status di eroi è stato sancito definitivamente anche dal capo dell'anticorruzione Cantone. Bene, insomma, tutto ciò che finisce bene, speriamo vada meglio sia per i medici che poi anche per i pazienti e per l'ospedale di Nola. Parleremo di molte cose, naturalmente, anche quest'ultima puntata della settimana lavorativa di Effetto Notte. Ci concentreremo, come tradizione di Effetto Notte, sul bilancio della politica italiana della settimana. Vi ricordate, no, quella che è stata definita una giravolta dei 5 Stelle, le possibili defezioni, e poi c'è stata anche la sentenza della Consulta sui quesiti referendari relativi al Jobs Act. Ci occuperemo anche di Libia, perché la situazione è sempre molto caotica. Si dice che la stabilità del paese africano è molto importante, soprattutto per l'Italia, ma insomma ieri c'è stato un tentativo di golpe, oggi il governo non riconosciuto di Tobruk attacca l'apertura dell'ambasciata italiana. Cercheremo di capire meglio la situazione. Poi, dopo le accuse degli Stati Uniti di ieri a Fiat Chrysler per quanto riguarda le emissioni dei diesel, oggi si apre a Parigi l'inchiesta sulla Renault. Insomma, tantissime cose. Poi le previsioni meteo. Non perdete un solo minuto di Effetto Notte. Ricordatevi che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio e sulla quale potete scrivere anche le vostre osservazioni, così come anche potete scrivere al numero per i messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Ma prima di tutto, come sempre, in sintesi, la giornata. Vaccini, un nuovo piano prevede che siano gratis per tutti, senza ticket. La ministra Lorenzin sottolinea non solo una cura, ma la prevenzione per la collettività. Emissioni inquinanti, a Parigi inchiesta che investe la Renault con l'accusa di truccare i dispositivi dei motori diesel. Nessuna frode, la società rispetta le leggi, ha fatto sapere l'azienda francese. Il titolo però perde oltre il 3%, mentre Fiat Chrysler chiude in rialzo a Milano. Libia, il governo di Tobruk contro l'ambasciata italiana, accusa è una nuova occupazione. La replica di Roma, Altani mira solo a creare tensioni. Wikileaks, Julian Assange si dice pronto a consegnarsi se Obama concederà la grazia al soldato Manning. I coniugi uccisi nel Ferrarese, confermata la custodia in carcere per il figlio e l'amico, i due adolescenti sono detenuti in una struttura per minorenni. Meteo, maltempo e freddo, temperature in calo da domenica, ancora neve al sud, scuole chiuse a Messina. WhatsApp a rischio intrusione, falla nei messaggi criptati, un ricercatore scova una backdoor, una porta segreta per accedere alla chat. E partiamo da quella che la ministra Lorenzin definisce una svolta nella sanità italiana, a partire dai vaccini gratis per tutti. Un passaggio storico per la sanità italiana. Il ministro Lorenzin non ha esitato a definire così la firma dei nuovi livelli essenziali di assistenza, le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Il prossimo step è il nuovo Piano Nazionale Vaccini, approvato il quale i vaccini saranno gratis per tutti e senza pagamento del ticket, ha ricordato il ministro della Salute. Il piano, allegato ai LEA, arriverà il 19 giovedì prossimo alla conferenza Stato-Regioni. Solleciteremo tutti un veloce via libera, garantito Antonio Saitta, assessore regionale alla sanità del Piemonte e coordinatore degli assessori regionali alla sanità. L'atteso nuovo piano, finanziato con uno stanziamento di 100 milioni per il 2017, 127 per il 2018 e 186 per il 2019, prevede la somministrazione gratuita ai bambini dei vaccini contro il meningococco B, la varicella, il rotavirus e l'epatite A, l'estensione agli adolescenti maschi del vaccino contro il papillomavirus e agli anziani di quelli contro pneumococco ed herpes zoster. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la vicenda delle emissioni inquinanti, il Dieselgate di Fiat Chrysler negli Stati Uniti si aggrava, come previsto dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. La società finisce nel mirino anche del Dipartimento di Giustizia, che indaga sulla presunta mancanza di comunicazione alle autorità del software che avrebbe consentito violazioni degli standard sulle emissioni. L'indagine penale confermata dalla società appesantisce il titolo Wall Street, dove Fiat Chrysler arriva a perdere il 4,2%, a Piazza Affari invece rimbalza salendo del 4,61% e recupera parte delle perdite seguite appunto alla denuncia dell'Agenzia per la Protezione Ambientale, che l'ha accusata di violazioni degli standard su 104.000 auto diesel. Sergio Marchionne ha definito strano il tempismo dell'EPA, l'Agenzia Americana per l'Ambiente, che una settimana prima del cambio alla Casa Bianca rende pubblica un'inchiesta che durava da un anno e mezzo. Ora scende in campo anche la Commissione UE, che sta facendo da mediatore nella disputa italo-tedesca di qualche mese fa e chiede a Roma risposte convincenti sul suo sostegno alla posizione di Fiat. A Parigi, intanto, un anno dopo le perquisizioni negli uffici della Renault, l'inchiesta pubblica sull'inquinamento dei motori diesel ha partorito un'indagine penale sulla casa francese. I casi FCA e Renault sono per ora meno gravi del Dieselgate Volkswagen. Non è stato scoperto alcun dispositivo truffaldino e le due aziende rivendicano ciascuna la correttezza del proprio operato. C'è un altro tratto che li accomuna. Sia FCA che Renault hanno messo in commercio, come hanno fatto molti altri costruttori, dei motori diesel che nell'utilizzo di tutti i giorni inquinano molto di più dei teorici limiti di legge europei. Al di là di come andranno a finire le rispettive inchieste, il polverone del Dieselgate non si poserà finché non verrà trovato un accordo a livello europeo su limiti e test seri, uniformi e che un organismo di controllo possa far rispettare. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tutto mentre anche la Renault finisce nel mirino di tre giudici francesi, sempre per i dispositivi antinquinamento, e su questo entreremo poi più nel dettaglio nel corso di Effetto Notte, collegandoci direttamente con Parigi. La situazione adesso invece in Libia, dopo il tentativo di golpe di ieri, il consiglio presidenziale del governo libico di intesa nazionale di al-Sarraj, l'unico riconosciuto dall'ONU, ha incaricato le forze armate di ristabilire l'ordine, ma intanto le autorità di Tobruk, dell'altro governo, quello non riconosciuto, si sono scagliate contro la riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli, definendola un ritorno militare. Immediata la risposta da parte italiana. Il sedicente governo di Tobruk, guidato da al-Thani, non è riconosciuto dalla comunità internazionale e mira solo a creare tensioni attraverso strumentalizzazioni. Questa è la risposta italiana. Quindi un lontano miraggio ancora la stabilità politica in Libia, lo capiremo più tardi con un esperto di quel paese. Di nuovo in Italia adesso non solo MPS, anche Palazzo Chigi ha chiesto un risarcimento al processo sul crack dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino, di cui fu presidente Denis Verdini. Il processo sul crack dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino, di cui fu presidente Denis Verdini, va avanti e arrivano le richieste di risarcimento danni. Oggi, nel corso dell'udienza, la Presidenza del Consiglio ha chiesto 42 milioni di risarcimento per la presunta truffa sui fondi dell'editoria. Il conteggio risulta dai quasi 23 milioni percepiti tra il 2005 e il 2009 dai giornali di Verdini. Cifra rivalutata con gli interessi a 28 milioni più un risarcimento danni pari al 50% della somma. Il Monte dei Paschi di Siena, nelle sue divisioni Capital Service ed ex Banca Antonveneta, ha chiesto invece un risarcimento di circa 48 milioni di euro ai costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, più altri coimputati. Altre richieste di risarcimento sono arrivate dal liquidatore del Credito Cooperativo Fiorentino e da altri istituti bancari. Il Monte dei Paschi di Siena è parte civile nel processo che ha affrontato la ristrutturazione del debito dell'ex gruppo BTP dei due costruttori. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo di cyberspionaggio, degli aggiornamenti sull'inchiesta. Emergono dettagli sullo stile di vita di Giulio Occhionero, dagli atti allegati all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma, anche nei confronti della sorella Francesca Maria. Stando alle carte, l'ingegnere rassicurava la madre e la sorella che un lavoro gratificante prima o poi lo avrebbero trovato, elencando altrettante offerte che gli sarebbero arrivate da società di prestigio internazionali. Non solo alla madre di Giulio Occhionero, parlava di una lettera al Papa informandosi se fosse stata consegnata o meno. E siamo alla politica italiana con i 5 Stelle e le penali per chi abbandona il gruppo. Ancora le penali al centro delle polemiche sul Movimento 5 Stelle. Dopo l'abbandono dell'Eurogruppo a seguito del flop dell'entrata nei liberali dell'ALDE, Marco affronta e spiega il perché della sua scelta a Radio 24. Quando io ho aderito al Movimento e quando io di fatto ho anche firmato quell'accordo, l'ho fatto con un movimento che aveva dei principi sono stati messi da parte. Era un movimento che non aveva capi e non aveva leader. Ma Luigi Di Maio insiste sul pagamento delle penali che nel caso degli eurodeputati ammontano a 250.000 euro. Noi troviamo degli escamotage per provare a limitare questa assenza di vincolo di mandato che ha creato i Volta Gabbana nella politica. Non appena escono diventano statisti. Intanto in tribunale a Roma l'avvocato Venerando Mondello, appoggiato dalla senatrice PD Monica Cirinna, contesta la legittimità della penale firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi quando era candidata e che ammonterebbe a 150.000 euro, una prequantificazione del danno d'immagine per i 5 Stelle, smentita poi l'ipotesi di autotassare i propri eletti dal blog. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo anche di unioni civili. In una nota, la responsabile dei diritti della segreteria nazionale del PD, Micaela Campana, dichiara: con l'ok definitivo del Consiglio dei Ministri e tre decreti legislativi di attuazione alla legge sulle unioni civili, il nuovo istituto esce dal regime transitorio ed entra a pieno titolo nell'ordinamento italiano. Grazie ai decreti ponte è stato possibile già costituire centinaia di unioni, consentendo a tante persone di cercare di coronare, scusate, il proprio sogno d'amore. Con questo ultimo via libera, dice, si mettono a punto alcuni aspetti non regolati direttamente dalla legge, come la disciplina di diritto internazionale privato, la scelta del cognome della coppia, eccetera. Con questo atto formale si conclude l'iter di una legge storica che cambia il destino di migliaia di cittadini. Di nuovo all'estero, con la sfida che Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, lancia ad Obama. Svolta la sorpresa nell'infinita vicenda di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks si è detto disposto ad essere estradato negli Stati Uniti qualora Barack Obama nell'ultima settimana da presidente dovesse concedere la grazia a Chelsea Manning. Un appello che sa di ultima sfida all'America prima che entri formalmente in carica Donald Trump a venerdì prossimo. Assange si trova da 5 anni nella condizione di rifugiato politico all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, in seguito da un mandato d'arresto svedese per stupro e abusi sessuali, mandato che potrebbe, se eseguito, aprire la porta di un'estradizione negli Stati Uniti. Assange è stato molto attivo negli ultimi mesi e settimane nelle vicende americane, prima facendo pubblicare su WikiLeaks delle email dello staff Clinton che si sospetta possano provenire dall'operazione di hackeraggio russo, poi definendo proprio il rapporto dell'intelligence americana sul presunto hackeraggio di Mosca profondamente imbarazzante per la reputazione dei servizi di Washington. Infine, quest'ultima mossa a gamba tesa, la mia estradizione per la grazia Manning. Per chi non lo ricordasse, Bradley Manning, che ora ha cambiato sesso e si chiama Chelsea, è stato condannato nel 2010 a 35 anni di carcere per aver divulgato informazioni top secret. Nelle ultime ore anche Edward Snowden aveva chiesto per lui un provvedimento di grazia presidenziale. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E vi devo aggiornare anche su questa notizia che riguarda il rating e l'affidabilità del debito italiano. L'agenzia di rating canadese DBR ha tagliato appunto il rating sull'Italia BBB. L'agenzia era l'unica che assegnava ancora una A al debito italiano. La riduzione del voto fa scattare un aumento della trattenuta che la Banca Centrale Europea chiede alle banche italiane che consegnano titoli impegno in cambio di liquidità. Per il sistema bancario significa un aumento delle garanzie per circa 10 miliardi di euro. E quindi siamo in Italia e parliamo di cronaca. I coniugi uccisi dal figlio e dal suo amico nel Ferrarese, convalida del fermo e misura della custodia cautelare nel carcere minorile. Lo ha deciso il GIP del Tribunale dei Minori di Bologna per il 16enne e il 17enne fermati per l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, padre e madre del più giovane dei due assassini. E poi invece la vicenda dell'uomo a Napoli ieri, Giuseppe Antonucci, che ha sparato cercando di uccidere l'ex moglie e il suo nuovo compagno, sono gravi ma non in pericolo di vita. Aveva ucciso 26 anni fa la prima moglie, che era una ragazza di 22 anni. Ebbene, era stato condannato a 20 anni e poi, tra buona condotta e vari attenuanti, ne ha fatti meno di 10. La tragedia della Costa Concordia, a 5 anni di distanza oggi, condizionato un po' dal maltempo, si sono svolte le celebrazioni per ricordare le vittime a 5 anni dal naufragio. Era il 13 gennaio 2012, ricordate, quando la Concordia, al comando di Francesco Schettino, naufragò al largo dell'isola, 32 morti tra i passeggeri, a cui si aggiunse un sommozzatore impegnato nell'opera di rimozione del relitto. Ma il tempo non dà tregua al freddo, lo sentite, l'ho sentito anch'io con la mia voce. La notte scorsa a Roma è morta una clochard italiana di 53 anni per assideramento. Per scongiurare altre morti per il freddo, il Vaticano continua ad aprire nella capitale varie strutture di notte. E per quanto riguarda le previsioni, poi più tardi ci colleghiamo con il nostro meteorologo. C'è poi il fronte scuole, diversi istituti chiusi per impianti di riscaldamento non funzionanti. E per chiudere questa notizia che riguarda WhatsApp, nonostante siano criptati, i messaggi di WhatsApp potrebbero essere a rischio intrusione. Secondo il giornale Guardian, un ricercatore americano ha scovato una backdoor di sicurezza, cioè una porta segreta del software, nella chat che consentirebbe a Facebook, proprietaria della piattaforma, o potenzialmente ad altri, di intercettare e leggere i messaggi. Sono spiati da tutte le parti. Voi però scrivete tranquillamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 le vostre osservazioni, le vostre argomentazioni. Aggiornamenti per chi viaggia e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie più importanti ve le ho raccontate in sintesi, la notizia della giornata. Adesso cominciamo invece a soffermarci su alcuni temi in particolare. Naturalmente, essendo venerdì, è tradizione di Effetto Notte fare un po' il punto sulla politica italiana, il bilancio della politica della settimana. Per i vostri messaggi, vedo già dei messaggi sulla politica che stanno arrivando, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Per esempio Carlo da Torino dice: la penale per il cambio di schieramento, quella che sarebbe prevista dal Movimento 5 Stelle, è una misura reazionaria fascista, qualifica chi se l'ha inventata, dice. Poi invece un altro messaggio dice così: vorrei precisare anche a favore di qualche giornalista che Grillo sbaglia solo nelle proporzioni quando parla di establishment all'attacco del Movimento 5 Stelle, io lo chiamo regime e guerra politica. Tra poco ne parleremo, perché diciamo il Movimento 5 Stelle è stato un po' protagonista della politica italiana in questi primi giorni, diciamo, quello che diciamo più sotto i riflettori. Adesso però, se qualcuno non ha acceso puntualmente la radio alle 21, io le notizie gliele ricordo lo stesso. Arriva la nuova sanità, vaccini gratis e senza il ticket, lo annuncia la ministra Lorenzin. Il governo aggiorna i LEA, quindi l'assistenza di base che deve esserci assicurata per tutti i cittadini, e riguarda nuove malattie rare e croniche. E poi l'Italia che perde l'ultima A nel rating, questa agenzia canadese DBRS che porta il rating da A a BBB, impatto sugli investimenti, debito pubblico ancora record nel nostro paese. Intanto si aggrava il Dieselgate per Fiat Chrysler negli Stati Uniti, la giustizia americana indaga, il titolo rimbalza però a Milano. Intanto Parigi apre un'inchiesta su Renault. Maltempo, nord sotto la neve, scuole chiuse, chiese aperte per il gelo, una senza tetto muore di freddo a Roma e la sindaca Raggi attacca il governo, dice i soldi per le banche, MPS ci sono e non invece per, dice, gli assegni di cittadinanza, il reddito di cittadinanza. Julian Assange lancia una sfida a Barack Obama e dice: mi consegno agli Stati Uniti se tu, Barack Obama, grazie al soldato Manning, che era quello che aveva fatto avere appunto le informazioni segrete, le aveva diffuse. Tobruk, per quanto riguarda la Libia, contro l'Italia, dice l'ambasciata italiana che ha aperto in questi giorni è una nuova occupazione. Roma replica: Altani di Tobruk non è riconosciuto e creano soltanto tensioni. Per la cronaca, i coniugi uccisi nel Ferrarese, custodia in carcere confermata per il figlio sedicenne e per l'amico, i due adolescenti sono detenuti in una struttura per minorenni. E poi WhatsApp, l'avete sentito, a rischio di intrusione. Siamo quindi al bilancio della politica italiana della settimana. Diciamo che i fatti principali essenzialmente sono due: da una parte il fallito matrimonio a Bruxelles con conseguente ritorno al primo amore del Movimento 5 Stelle, con accentuazione poi di un malessere che già era iniziato nel movimento e qualche defezione, e poi l'altro argomento è la decisione della Consulta della Corte Costituzionale sui quesiti referendari relativi al Jobs Act. Quindi partiamo dal Movimento 5 Stelle. Il 2017 della politica italiana è iniziato effettivamente, perdonatemi, questa è la mia voce ormai, con un doppio colpo di scena che riguarda il Movimento 5 Stelle. Allora, il primo aspetto è questo: l'annuncio di una svolta da parte del Movimento 5 Stelle in questi giorni. Diceva ormai è finito la strada in comune con il gruppo euroscettico di Nigel Farage a Bruxelles, e andiamo verso un'alleanza con l'ALDE, che sono poi i liberaldemocratici, quelli più europeisti in assoluto in Europa, però questa decisione era stata accolta dal 78% online degli iscritti al blog. Però il secondo colpo di scena qual è stato? Che l'ALDE a un certo punto nella stessa giornata di questo annuncio ha detto: beh no, in realtà respingiamo questa alleanza. E gli attacchi da parte, diciamo, degli oppositori al Movimento 5 Stelle sono stati vari, sono incoerenti, sono opportunisti, sono dilettanti allo sbaraglio. Allora comincerei per esempio dal leader della Lega, Salvini. Mi spiace per gli elettori in buona fede dei 5 Stelle che pensavano di votare un partito che voleva lasciare l'euro, voleva cambiare l'Europa e voleva bloccare l'immigrazione. Con oggi, per qualche poltrone, per qualche euro in più, Grillo e i 5 Stelle a Bruxelles stanno con il partito più europeista di tutti, quello sostenuto da Prodi e da Monti, quello che difende l'euro, quello che difende le banche, quello che difende il TTIP, quello che difende l'immigrazione di massa. Mi spiace perché è una triste fine dalla rottamazione alle poltrone. E questo ha detto Salvini quando c'era stato all'inizio della giornata l'annuncio di questa alleanza. Poi però, quando invece è venuta meno per i motivi appunto che vi ho spiegato, cioè con quel secondo colpo di scena, allora per esempio sentiamo la dichiarazione di Rosato del PD. Volevano soldi e poltrone e il Movimento 5 Stelle si è infranto contro chi, al contrario di loro, ha voluto tenere saldo su valori, su programmi, e così il gruppo liberale gli ha detto di no. Del resto non è nuovo per il Movimento 5 Stelle privilegiare la scelta di cercare compromessi. Ecco, questo lo hanno pagato caro. E allora a questo punto sentiamo però un esponente tra i più in vista del Movimento 5 Stelle, Di Battista, che ha parlato la sera stessa a 8:30 sulla 7. Il Movimento 5 Stelle, in Italia come in Europa, viene comunque percepito e trattato come un corpo estraneo, da comunque eliminare e buttare fuori. Qui in Italia siamo entrati nel 2013 e Alfano è diventato ministro con i partiti politici che vengono dai partiti comunisti, e in Europa, nel momento in cui c'era una possibilità, giusto o sbagliata che fosse, di entrare in un determinato gruppo molto grande e di incidere di più, a un certo punto loro si sono tirati indietro, perché evidentemente è bene che alcune idee del Movimento 5 Stelle vengano un pochino ostacolate. Ma lei era ostacolate. A favore di questo accordo? La mia posizione è sempre stata riuscire, anche se è difficile, a formare un gruppo autonomo. Perché quindi noi quando andiamo, no, quando noi andiamo, no, le dico questo, quando noi andiamo da soli, secondo me è meglio. Allora, certamente la figuraccia l'ha fatta anche il leader dell'ALDE, Guy Verhofstadt, che pare che nei giorni precedenti in realtà avesse proprio sancito un accordo con Grillo, e poi a un certo punto ha detto no, rimangono differenze fondamentali sulle questioni europee chiave. Strano, non ci avesse pensato prima. Però certo anche il Movimento 5 Stelle non esce benissimo da questa vicenda. Addirittura Becchi, che per qualche tempo è stato considerato l'ideologo del Movimento 5 Stelle, poi invece ci sono state delle, diciamo, degli allontanamenti, aveva twittato: io dico, lo dico in spagnolo, figura de mierda, aveva detto addirittura Becchi. Ne parliamo con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Ecco, al di là di tutto questo, il malessere c'è, evidentemente c'è secondo qualcuno una sorta di disorientamento, ci sono state anche delle defezioni, poche in realtà, due, no? A Fronte, che è andato a Bruxelles dai Verdi, e poi Zanni invece che è andato con il gruppo di Salvini, mi pare che altri cinque siano in bilico, per ora insomma diciamo normale, no? Nella dinamica normale dei partiti tradizionali. Allora, io penso una cosa, che il Movimento 5 Stelle, essendo partito nuovo, in formazione tutto sommato, con delle modalità anche diverse rispetto al passato, cioè è un partito che nasce su iniziativa di un singolo, ovvero Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, e che poi prende piede anche attraverso appunto il web. Penso che sia abbastanza naturale che all'interno di questo movimento si siano concentrati, come dire, culture diverse. Non a caso il Movimento 5 Stelle ha sempre insistito sul fatto di non essere né di destra né di sinistra, e spesso ha ondeggiato su posizioni più di destra, come ad esempio nel caso dell'immigrazione, quando Grillo ipotizzò appunto di voler reintrodurre, come voleva la Lega, il reato di immigrazione clandestina. Poi si fermarono perché appunto già allora all'inizio ci furono dei immediati distinguo interni, oppure scelte appunto come quella di andare verso l'ALDE, quindi un partito, un gruppo decisamente più europeista, sì, e anche moderato. Quindi ritengo abbastanza naturale, come dire, nell'evoluzione del Movimento 5 Stelle queste oscillazioni. Quello che però come dire, mi sembra invece meno comprensibile sono le modalità. Cioè, io credo che quando, e questo vale ovviamente per tutti i partiti, però proprio quando tu sei all'inizio di una storia, di un percorso, il confronto, soprattutto quello interno, sulle posizioni da prendere, poi su posizioni importanti, perché aderire a un gruppo euroscettico, come quello, per usare un eufemismo, come quello di Farage, oppure andare con i liberali, che sono invece i più europeisti, come dicevi tu appunto, richiederebbe, come dire, una riflessione sul perché stavamo con loro e oggi vogliamo cambiare o viceversa, anche perché poi questa cosa si è risolta con il ritorno del movimento nel gruppo di Farage. Cioè, non si capisce la scelta politica, cioè la sostanza proprio. Non di aver si fatto avanti e indietro tra due gruppi così diversi di natura. Così opposti, no? Così opposti, cioè non si capisce qual è la scelta politica. Si capisce soltanto che era una scelta, come dire, come cioè di comodo, perché appunto non è tanto le poltrone, i soldi, cioè i soldi per fare politica servono, non è che servono solo al Movimento 5 Stelle, servono a tutti, perché con quei soldi non è che loro se li intascavano, servono a pagare i loro collaboratori, a poter sostenere certi accertamenti, insomma, cioè a fare la vita politica, non è che la vita politica è gratis, quindi quei soldi servivano, così come servono le poltrone, non in senso pregiativo, cioè mi serve per occupare la poltrona. Ma per contare di più, per essere più incisivi. Ma anche perché guidare una commissione, per esempio una commissione parlamentare del Parlamento di Strasburgo, ti consente anche di entrare maggiormente in quelle che sono le decisioni del Parlamento e quindi nelle decisioni politiche. Quindi io in questo sinceramente non ci vedo niente di, come dire, di negativo. Quello che vedo di negativo invece è l'assenza di un confronto sui contenuti. E questo secondo me è il problema principale del Movimento 5 Stelle, anche laddove si parla di politica interna, cioè non si capisce spesso quale sia la loro posizione, cioè loro sono contro, però non si capisce su che cosa sono pro, cioè qual è la loro scelta politica, no? Rispetto a dei temi importanti. Credo che soprattutto sia questo, e credo che anche la disaffezione, vogliamo definirla così, o comunque il disorientamento, per usare un'espressione più leggera, nasca anche proprio da questo, cioè dall'assenza di un confronto. Le decisioni vengono calate dall'alto, si decide appunto, si cambia il codice interno e si decide una volta che per un avviso di garanzia ti devi sospendere, ti sospendo e ti espello, un'altra volta si decide invece che l'avviso di garanzia non è ragione di sanzione. Cioè, non c'è quello che manca, ripeto, capisco che mi sto ripetendo fin troppo, ma è appunto il confronto, cioè prendere delle decisioni sulla base, e non basta il click. Cioè, quello che era visto come un elemento di democrazia diretta, il click, cioè sto con chi, no? Per cui vi piace questo provvedimento, vi piace questa decisione, adesso invece mi sembra molto strumentale e poco democratico, perché insomma che poi 30.000 persone su un partito che è il primo o il secondo partito italiano decidono che si va con un gruppo piuttosto con un altro, cioè insomma parlare di democrazia mi sembra un azzardo. Senti, parlavi di decisioni, passiamo allora alla decisione della Corte Costituzionale, no, di questa settimana sull'ammissibilità dei tre requisiti referendari relativi al Jobs Act. Sappiamo che quello sull'articolo 18 che il sindacato, la CGIL avrebbe voluto reintrodurre, cioè quello che prima della sua abrogazione col Jobs Act prevedeva il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa. Allora, su quello ha detto no, non è ammissibile rivotare su questa cosa, quindi non se ne parla. Invece ha dato via libera la consulta sull'abrogazione delle norme relative ai voucher, che abbiamo detto ormai è stradetto un po' tutti, sono stati usati in modo scorretto e spesso anche approfittandone, insomma, e poi via libera anche al referendum contro le norme che limitano la responsabilità in solido fra appaltante e appaltatore, cioè tutte e due le società, chi appalta, appaltante e appaltatore, devono essere responsabili poi delle regole, dei diritti e della salvaguardia, insomma, dei lavoratori. Allora, su questi due quesiti si voterà, anche se è vero che probabilmente il governo è già al lavoro per modificare i voucher in modo da depotenziare questo voto, che poi non si capisce se sarà giugno o non sarà giugno, perché c'è di mezzo anche una conseguenza più, Barbara, strettamente, squisitamente politica, no? Probabilmente si è detto che forse i renziani speravano che si buttasse tutta all'aria questi tre quesiti, nel senso fossero tutti ammissibili, in modo che avessero avuto il motivo per dire vabbè, allora andiamo a elezioni anticipate, visto che la riforma cuore del governo Renzi è stata praticamente, non dico cancellata, ma insomma molto indebolita, e quindi riandiamo a elezioni. A questo punto che succede, Barbara, dal punto di vista anche delle votazioni? Allora, come dicevi tu, appunto, se ci sarà un intervento significativo e sostanziale, perché poi deve essere tale, perché non si faccia un referendum, cioè un referendum ma non si fa se la legge che interviene successivamente alla richiesta di referendum interviene appunto sulla richiesta in modo consistente, no? In modo consistente, quindi bisognerà vedere in che modo il governo e il Parlamento interverranno. Per quanto riguarda poi il voto, cioè gli altri due quesiti a cui tu accennavi, effettivamente entra in ballo il discorso sulle elezioni politiche, perché come sappiamo, se ci sono elezioni politiche, le consultazioni referendarie non vengono annullate, vengono rinviate. Potrebbero slittare di un po', quindi. Sì, di almeno 6 mesi, se non un anno. E allora, sulla legge elettorale, sulle possibilità che si vada a votare con una nuova legge elettorale entro giugno, perché diciamolo chiaramente ai nostri ascoltatori, o si vota a giugno o si va a fine legislatura, cioè al prossimo febbraio, tra un anno, perché chi parla di votare in autunno parla sapendo di dire una cosa non praticabile, in quanto siamo in piena sessione di bilancio, quindi non esiste andare a votare. Quindi o si vota a giugno o addirittura si passa all'inizio del prossimo anno, 2018. Sì, perché se ad agosto penso sia abbastanza improbabile, e quindi dopo c'è la sessione di bilancio con l'approvazione della manovra entro il 31 dicembre, come avviene ogni anno, e quindi immediatamente si scavallerebbe l'anno, cioè ci daremmo appuntamento al prossimo anno. Che ci siano possibilità di andare a votare presto dipenderà, come è noto, dalla famosa sentenza, anche qui, della Corte Costituzionale. 24 gennaio, sbaglio? Sì, ormai pochissimo. Sì, 24 gennaio, ormai la Corte Costituzionale decide anche i più importanti appuntamenti politici, ma non per colpa della Corte Costituzionale, ma per colpa di un Parlamento che evidentemente non fa il suo dovere a pieno. Come spesso si dice, come spesso viene rimproverato. Barbara Fiammeri, direi che per il momento possiamo fermarci qui. Ti auguro buon fine settimana. E a presto. Anche a voi. Ciao. Buonasera. Barbara. Ci prendiamo questa pausa. Intanto vedo un ascoltatore tra i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale, ripeto, potete aderire senza indugio, e al numero 349-238-6666, che è quello per WhatsApp ed SMS. Andrea da Chiusi, a proposito delle emissioni inquinanti, dice: a proposito di emissioni, l'Europa dovrebbe indagare sulle emissioni acustiche delle motociclette statunitensi Harley-Davidson, che così a orecchio superano di gran lunga i limiti e andrebbero multate e bandite. Insomma, Andrea, intanto non ce ne sono così tante in giro, diciamo la verità. Sono belle da vedere, sono anche belle da guidare, e tutto sommato c'è altro che dà ben più fastidio, ben altro inquinamento acustico, Andrea. Comunque parliamo delle emissioni tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie. Ne abbiamo parlato di molte finora, abbiamo parlato ampiamente della politica di questi giorni, la politica italiana. Adesso invece torneremo a parlare di emissioni inquinanti dopo l'accusa ieri nei confronti degli Stati Uniti. Oggi si parla dell'inchiesta a Parigi nei confronti della Renault. Però per chi avesse acceso la radio in questo momento, vi ricordo comunque almeno i titoli principali. Vaccini, un nuovo piano prevede che siano gratis per tutti, senza ticket. La ministra Lorenzin sottolinea non sono una cura ma una prevenzione per la collettività. Emissioni inquinanti, a Parigi l'inchiesta investe Renault con l'accusa di truccare i dispositivi sui motori diesel. Nessuna frode, dice la società, rispettiamo le leggi. E poi il titolo perde però oltre il 3%, mentre Fiat Chrysler chiude in rialzo a Milano. Libia, il governo di Tobruk contro l'ambasciata italiana, accusa una nuova occupazione. La replica di Roma è Altani, mira solo a creare tensioni. Wikileaks e Julian Assange si dice pronto a consegnarsi se Obama concederà la grazia al soldato Manning. E poi per il meteo, maltempo e freddo, temperature in calo da domenica, WhatsApp a rischio intrusione, falla nei messaggi criptati. Noi non abbiamo fatto niente di sbagliato, se l'abbiamo sbagliato per incompetenza tecnica o per persista, ma non è stato fatto niente, dico assolutamente niente per mettere in dubbio l'aspetto etico e morale di questa azienda. Questa è la risposta indignata di Sergio Macchione, amministratore delegato di Fiat Chrysler, alle accuse di ieri dell'agenzia di controllo, dell'agenzia dell'ambiente americana, che ha accusato Fiat di avere in circolazione diverse auto prodotte appunto da Fiat Chrysler, che diesel, che hanno falsificato i dati sulle emissioni, che hanno un qualche dispositivo che falsifica insomma le emissioni inquinanti. Questa è la risposta di Marchionne, anche se adesso sta indagando anche il Dipartimento di Giustizia americano. Ieri abbiamo parlato della differenza tra regole europee e regole americane, però adesso invece ci trasferiamo in Francia con Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Caro Marco, ciao. Buonasera. Dopo queste accuse adesso si parla anche di Renault, perché è stata aperta questa inchiesta a Parigi, anche qui l'accusa è di truccare i dispositivi utilizzati da Renault, no? Sulle auto diesel. No, non esattamente così. Io, se mi consenti, coglierei l'occasione per fare un minimo di chiarezza. Certo, il caso Volkswagen, il caso Chrysler e il caso Renault sono tre casi completamente diversi. Diversi tutti e tre, sì. Cioè, Volkswagen riguarda l'installazione sulle vetture di software finalizzati a modificare i dati sulle emissioni, quindi a falsare i dati. Quindi è una truffa vera e propria. Nel caso di Fiat Chrysler l'accusa è che su alcuni modelli, sulle versioni di alcuni modelli, c'erano dei software che consentono il superamento in certe condizioni dei tetti di emissione per migliorare le prestazioni. Nel caso Renault, infine, l'accusa è quello di aver frodato i consumatori per non aver fornito informazioni corrette ai clienti sulle emissioni reali in condizioni di guida normali, o per la mancanza di dispositivi in grado di limitare le emissioni. Quindi sono tre situazioni completamente diverse, però altrimenti non si capisce più nulla. Certo, nei titoli diciamo il motivo sembra sempre questo dei dispositivi legati ai diesel, sì, però, no? Però non è così, perché ci sono dei livelli di gravità diversi, dei rischi di sanzioni diversi, delle responsabilità diverse. Cosa potrebbe succedere a Renault adesso, secondo te? Il reato di frode nei confronti dei consumatori, da cui potrebbero anche dipendere dei danni fisici, come il caso di Renault, il rischio è quello di una sanzione che può essere di 750.000 euro, ma in realtà potrebbe arrivare teoricamente al 10% del fatturato, cioè 4,5 miliardi. Non accadrà, e peraltro è stata una procedura, inizio una procedura molto lunga, non c'è neppure un rinvio a giudizio, c'è per il momento l'apertura di un'inchiesta sulla base di una indagine fatta dai servizi antifrode del Ministero dell'Economia, i quali evidentemente hanno raccolto il materiale sufficiente a ritenere che effettivamente Renault non abbia in qualche modo, come dire, tra virgolette, ingannato il consumatore. Cioè, per capirci, tu compri un'automobile, c'è scritto sul libretto che le emissioni sono 100, poi in realtà tu guidi e le tue emissioni sono 150. Perché? Perché 100 è il livello di emissione verificato in sede di test di omologazione della vettura, e quindi in condizioni diciamo perfette, ottimali, e è chiaro che poi nella guida invece normale c'è un livello di emissioni più alto. Quindi in realtà la società ti vende un prodotto che a suo parere fornisce una prestazione diversa da quella che in realtà poi tu invece hai nel suo utilizzo. In questo senso c'è un'accusa di frode nei confronti dei consumatori. Chiarissimo, Marco Mussanè. Poi d'altronde lasciamo allora procedere questa inchiesta e vediamo poi quali saranno i risultati. Grazie Marco da Parigi. Grazie a voi. Ciao Marco Mussanè. E da Parigi alla situazione in Libia, la cui stabilità politica interessa in particolar modo l'Italia, no? Soprattutto per vicinanza, per gli scambi anche con questo paese per i migranti. Ieri c'è stato un tentativo di golpe fallito contro il governo libico di Intesa Nazionale al-Sarraj, che poi è l'unico riconosciuto dall'ONU. E oggi cosa succede? Che le autorità di Tobruk, dell'altro governo non riconosciuto, si sono scagliate contro la riapertura in questi giorni dell'ambasciata italiana a Tripoli, l'ha definita una nuova occupazione. Quindi chiedo ad Arturo Varvelli, responsabile dell'Osservatorio del Terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, buonasera Varvelli. Buonasera. Se quindi la stabilità politica in quel paese è un miraggio ancora, a lungo? Sì, se non un miraggio, certamente molto difficile e complessa, e diciamo che certamente la dichiarazione del Parlamento di Tobruk o di parte del Parlamento di Tobruk sembra dimostrarlo, perché non certamente perché è un atto di occupazione instaurare una sede diplomatica presso un governo legittimo riconosciuto dalle Nazioni Unite, ma testimonia di fatto la complessità a derimere alcune delle divergenze interne che sono certamente sempre più forti, e soprattutto dimostra che il governo di unità nazionale purtroppo non è quello che si sperava un anno fa, quando in pratica si realizzò e riuscì poi tra il marzo e l'aprile a instaurarsi nella capitale. Ma è forte davvero questo governo di Sarraj? Leggo tra l'altro adesso un'agenzia dove si legge: contrariamente a quanto riportato dal Corriere.it, che riporta dichiarazioni di milizie locali, nessun militare italiano è impegnato per la sicurezza del primo ministro Sarraj né agisce come sua guardia del corpo, lo precisa il Ministero della Difesa. Perché c'è anche questo dubbio, insomma, sempre, no? Si dice ci sono soldati italiani lì che stanno... Beh, non ci sono soldati italiani, ci saranno i nostri servizi, come è normale che ci siano, come ci sono i servizi di moltissimi altri paesi, non solamente i servizi, ma abbiamo visto in azione forze speciali di altri paesi di cui abbiamo avuto evidenza, come i francesi, che hanno tenuto ad esempio una posizione molto ambigua, poiché si dichiaravano a favore di Sarraj, ma in realtà poi sono stati abbattuti alcune forze speciali che erano di supporto di Haftar. Quindi io insomma onestamente tutta questa preoccupazione polemica non mi sembra eccessiva, o mi sembra onestamente inutile. Sì, piuttosto inutile rispetto a un paese che continua a vivere in una sorta di drammatica instabilità, ma non è una novità di oggi, non è una novità di ieri. Ciò testimonia progressivamente che il paese sta vivendo e continua a vivere delle fasi molto complesse, molto difficili. C'è da dire ad esempio che Tobruk, o parte del Parlamento di Tobruk, ha cominciato a riunirsi, la minoranza ha cominciato a riunirsi anche a Tripoli, o ha dichiarato che si riunirà a Tripoli in supporto del governo di Sarraj. Quindi ci sono azioni e contrazioni nello scenario politico libico. Grazie Arturo Varvelli dell'ISPI, grazie. Grazie a voi. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Abbiamo ancora una decina di minuti e vi ricordo, Roberta Giordano sempre con voi, quali sono i fatti principali per quanto riguarda la sanità. Il ministro Lorenzin ha detto che è pronto un nuovo piano che prevede per esempio i vaccini gratis per tutti senza ticket, dice non sono una cura ma una prevenzione per la collettività. Di emissioni inquinanti abbiamo riparlato poco fa dopo le accuse di ieri a Fiat Chrysler, oggi Parigi ha aperto un'inchiesta su Renault, i problemi sono diversi però anche per quanto riguarda Renault il titolo ha perso oltre il 3%, mentre Fiat Chrysler ha chiuso in rialzo a Milano. Libia, ne abbiamo appena parlato col governo di Tobruk contro l'ambasciata italiana, con l'accusa è una nuova occupazione, l'Italia dice no, chi lo dice mira solo a creare tensioni, abbiamo visto insomma il percorso per la stabilità politica è ancora lungo. Wikileaks, Julian Assange si dice pronto a consegnarsi se Obama concederà la grazia al soldato Manning, e poi per il meteo maltempo e freddo perdurano, temperature in calo da domenica, ne parleremo più tardi, e per WhatsApp abbiamo visto anche lì c'è il rischio di intrusione, una falla nei messaggi criptati, l'ha scoperta un ricercatore americano. E adesso spazio europeo. Europa 24 notte. Continuano a migliorare le condizioni dei rifugiati in Turchia fermati sulla rotta balcanica, lo ha detto ieri in un'audizione in Commissione Libertà Civili al Parlamento Europeo Martin Verwey, coordinatore europeo per l'accordo tra Unione Europea e Turchia, dichiarazioni che però stridono con le immagini che scorrono in TV dei migranti bloccati fra la Grecia e la Serbia in fila sotto la neve per un piatto di minestra. Valentina Furlanetto ha raggiunto al telefono Lucio Melandri, coordinatore dei progetti di emergenza migranti in Europa per l'UNICEF, che si trova in Grecia proprio per seguire questa situazione. In Grecia in particolare la situazione è critica nelle isole, e in particolare su due isole, sull'isola di Lesbo e l'isola di Samos. In queste due isole in realtà si trovano i famosi cosiddetti hotspot, dove le persone che attraversano il mare dalla Turchia e giungono in Grecia devono permanere per diverse settimane, in alcuni casi anche diversi mesi, semplicemente per fare uno screening, per capire se sono intitolati a poi proseguire la loro richiesta di asilo verso l'Europa, oppure se saranno semplicemente da essere rifiutati e rispediti da dove sono venuti. In questo caso la situazione veramente critica oggi è quella dell'isola di Samos, dove abbiamo nel sito che si trova lì 500 famiglie che si trovano in una situazione molto critica, perché in seguito alle limitazioni di spazio nel campo non è stato possibile winterizzare tutto, cioè riuscire a rendere quelle strutture che sono disponibili capaci di far fronte all'ondata di freddo. Ma stanno nei container queste persone? Famiglie, no, si trovano in delle tende. Ed è questo che è drammatico, infatti. Stanno in delle tende che non sono neanche tende invernali. Ora, nell'isola di Lesbo, mentre il governo sta iniziando a prendere una serie di misure, tra cui per esempio stanotte 93 persone sono state trasferite su una nave militare e dentro la giornata di oggi ulteriori circa 200 persone dovrebbero essere trasferite. Altre persone sull'isola di Lesbo sono state trasferite in alcun hotel che durante il periodo invernale sono chiusi. Sull'isola di Samos non c'è la stessa disponibilità. 500 famiglie sull'isola di Samos hanno bisogno di protezione immediata. Un'altra area di grande criticità oggi la troviamo esattamente in Serbia. Serbia che si trova a interagire ad oggi con circa 7.000 fra rifugiati e migranti. Molti di questi sono stati trasferiti ed accolti nelle strutture che sono state preparate, che si trovano in diverse aree urbane della Serbia. Molti di loro, sebbene vengano invitati a trasferirsi in queste strutture che offrono accoglienza e protezione, preferiscono non andarvi perché cercano di continuare il loro percorso, purtroppo sempre nelle mani di organizzazioni criminali, e quindi temono che andando ad inserirsi nel contesto di questi centri, il loro percorso, la loro corsa verso l'Europa verrà bloccata. Ed è quindi proprio la politica dell'Europa creare questa situazione in Grecia e nei Balcani? Assolutamente, nel senso che da quando il 20 di marzo dell'anno scorso l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia ha portato all'innalzamento di tutte le barriere, al rafforzamento della chiusura dei confini, queste persone non hanno alternative al mettersi nelle mani di organizzazioni, di trafficanti. Tutte queste nuove barriere, questi nuovi confini chiusi fanno sì che queste persone, per raggiungere le loro famiglie, per raggiungere un luogo protettivo in Europa, siano costretti a farlo in maniera nascosta. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ringrazio l'ascoltatrice Beatrice e poi anche diversi ascoltatori che subito difendono l'Harley Davidson. In effetti non mi sembra che abbia queste colpe, ma subito andiamo al nostro Paolo Corazzon di 3B Meteo, portatore sano di sole. Io, Paolo, continuo a sognare tenacemente il caldo, ma qual è la realtà? Tu insisti, ma in realtà sarà un weekend freddo purtroppo, ecco. E anzi temo che questo proseguo del mese di gennaio e anche il mese di febbraio saranno tipicamente invernali, quindi cara Roberta mettiti un po' il cuore in pace. C'è da dire che però domani sarà una bella giornata di sole in tutta Italia, però con venti settentrionali e quindi appunto temperature bassine. Domenica poi ci risiamo, nuova perturbazione, ancora una volta punta verso il centro-sud dell'Italia e quindi al centro-sud nuove nevicate fino a bassa quota. Nulla a che vedere con quanto accaduto 8 giorni fa, quindi nulla, non nevicate in costa, diciamo, però a quote basse, quindi anche il Vesuvio per esempio verrà imbiancato. Invece il nord Italia anche domenica avrà ancora tempo buono, ma sempre con temperature basse dappertutto. Ma al di là dell'odioso freddo, almeno per quanto mi riguarda, cioè, è un'anomalia che nevichi al sud e non al nord? Sì, sicuramente è l'ennesimo ennesima anomalia, anche perché appunto settimana prossima, tra l'altro, diverse perturbazioni raggiungeranno l'Italia e tutte punteranno verso il centro-sud, quindi il cambiamento climatico è in atto. Te figurati che il 2016, ormai ci sono i dati ufficiali, è stato l'anno più caldo di sempre da quando abbiamo dei dati meteorologici, quindi qualcosa non va, punto e basta. Sì. Vedremo nel 2017 allora, che è appena iniziato. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.